Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora vediamo di accompagnarvi fino alla vigilia di Natale con la cronaca della giornata economico-finanziaria. Oggi da segnalare, da un lato mercati anche oggi in rialzo e Milano meglio di altre borse, più 1,6 Milano contro una media europea dell'1%, che è il guadagno di Parigi, dello 0,70 che è quello di Francoforte, dell'1% che è appunto il guadagno di Londra, l'America più 0,35. Euro sempre a quota sopra 1,30, anche se di poco, 1,31,22. Bene le banche oggi, alcune, soprattutto il Banco Popolare più 3,60, Fondiaire Assai più 3,40, Fiat più 3,30, Unicredit più 2,90 e poi Exor più 2,70, Impregilo più 2,60, Parmalat il 2,5% di rialzo assieme a Buzzi Unicem e a Mediobanca. Bene anche Tods più 2,3, Telecom più 2,2 come Finmeccanica. Il 2% lo guadagnano sia A2A che Intesa San Paolo. Chi perde oggi? Azimut lo 0,90, Bulgari lo 0,80%. E questo per quello che riguarda i mercati, ne parleremo più avanti. Oggi da segnalare anche le voci poi confermate non di un declassamento del voto sul debito portoghese, ma di un outlook negativo, che è una cosa un po' diversa, cioè la prospettiva che il voto andrà abbassato. Le agenzie di rating si fanno sentire anche oggi, Moody's, quella che ha ammesso e annunciato che sta valutando un taglio sul voto al debito del Portogallo, e poi reazione anche un po' piccata del ministro delle finanze spagnolo Elena Salgado, dicendo insomma l'agenzia Moody's esagera nel valutare le banche spagnole, ha tagliato, ricorderete, il voto a 30 banche spagnole. La Spagna oggi doveva collocare quasi 4 miliardi di euro di obbligazioni, di BOT o bond, come ormai li chiamano tutti. Ebbene, non ha avuto problemi a collocarli, però il rendimento è salito nella parte alta della forchetta offerta, e a questo punto all'1,8% contro l'1,7% dello scorso fine novembre. Non è drammatico, insomma, sempre segnali di tensione. Di cosa ci occuperemo oggi come cronaca della giornata economico-finanziaria? Beh, un tema, oserei dire, quasi di elezione in questo programma. Siamo a fine anno, tutti pensano ai regali, e anche i manager delle grandi banche d'affari pensano ai regali. Avranno di che spendere, visto che i bonus sono a record. Avete capito bene, i bonus dei manager delle banche d'affari americane soprattutto, ma non solo, vedremo anche qualche caso in Europa, sono di nuovo tornati a record. E già l'anno scorso non vi fu nessuna sofferenza in quel mondo che, lo diciamo senza voler polemizzare, ma insomma è all'origine della crisi finanziaria che stiamo raccontando da due anni. Già l'anno scorso i bonus a Wall Street avevano fatto un più 17% rispetto al 2008, e piove sul bagnato, perché anche oggi la notizia è del Wall Street Journal, ma non solo. Le banche tutto sommato andranno a erogare miliardi e miliardi di... hanno già accantonato le 5 maggiori società di Wall Street 90 miliardi per i bonus ai propri manager. 90 miliardi. E Wall Street si appresta a chiudere uno dei suoi migliori anni da sempre. Wall Street intesa non come la borsa, ma come le società finanziarie, le banche d'affari americane, hanno guadagnato nei primi tre mesi del 2010, pensate, solo nei primi tre mesi, 21 miliardi e mezzo di dollari. E di questo parleremo, perché noi non molliamo, non abbiamo l'Alzheimer che ogni tanto accompagna questo paese, in cui ci si dimentica di tutto rapidamente. Torniamo sul tema, vorremmo capire come mai ci siano due mondi che evidentemente non si parlano. Non vi garantisco che riusciremo ad arrivare al punto, ma continuiamo a insistere, anche perché ci sono anche interessanti escamotage messi in atto da grandi gruppi bancari. Credit Suisse, First Boston per esempio, ha versato un acconto di bonus e gratifiche prima di fine anno, perché in Gran Bretagna ci sono nuove regole che prevedono al massimo il 20% degli incentivi in contanti, poi una parte in azioni congelate, regole per bloccare l'eccesso di bonus, oltre che all'una tantum che Londra ha applicato l'anno scorso sui bonus sopra i 25.000 pound. al 50% aliquota e poi anche un'aliquota del 50% per i redditi sopra le 150.000 sterline. Comunque, di questo parleremo. Poi del commercio con l'estero, i dati diffusi dalla SACE. C'è qualcosa che si muove, spesso lo diciamo, sul nostro export, però a novembre il dato ha fatto più 22%, quindi bene l'export, è aumentato il deficit, ossia la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo. E poi nella seconda ora del programma la notizia forse più forte di oggi, dato Istat sugli occupati nel terzo trimestre, e sale la disoccupazione all'8,7%, è il livello più alto da almeno il gennaio 2004, da quando esistono queste serie storiche mensili, quindi stiamo andando indietro a ogni rilevazione. Migliore il bilancio però se si prende il periodo di solo luglio-settembre, perché fa 8,3%, ma sempre più 0,3% rispetto all'anno prima. La cosa importante, al di là delle percentuali, come spesso ricordiamo, è il riferimento storico, è ai massimi da almeno 2004. Eccolo qua, sei polemico, Fabio, scritto di nuovo, sì, sono polemico con il mega bonus dei manager americani. E allora le notizie in breve. Oro in rialzo a 1386, però siamo sempre sotto il livello di 1400, sulle tecniche di 1400. Il cotone invece continua la corsa di alcune materie prime, cotone è ai massimi anche qui dalla guerra civile americana, 1861, il valore è di 5.912 dollari per libra. E quanto a petrolio, beh, siamo sempre vicinissimi a quota 90, 89,7 dollari. Ancora, i distributori di benzina, restiamo in tema di petrolio, potrebbero rimanere chiusi tra Natale e Capodanno. Io non oso neanche immaginare un'ipotesi del genere, però lo ha detto la FAIB Confesercenti, anche la FEGICA CISD e la FIGISC ANISA Confcommercio. Se il governo non rispetterà gli impegni assunti verso i gestori, questa è la reazione in sostanza alla notizia che nel testo del disegno di legge mille proroghe non sarebbe confermata la misura fiscale, ormai ventennale, a favore dei gestori, che è l'impegno che il governo ha preso, ricordate, quando vi fu la minaccia di sciopero lo scorso settembre. Allora, una notizia che riguarda i mercati, ma riguarda anche il nostro primo tema, poi ne parleremo. L'indice americano Standard & Poor's 500, quello che misura l'andamento delle 500 prime compagnie, delle società in America, ebbene, ha recuperato tutto dai tempi di Lehman Brothers, quindi dall'ottobre del 2008, ha recuperato tutto, nel senso che il 46% di recupero lo porta al livello pre-crack Lehman Brothers. Ancora, nel mille proroghe invece torniamo in Italia, il ministro Monti ha fatto sapere nel brindisi per gli auguri di Natale che c'è anche il 5 per 1000. Natale, una buona notizia, ci saranno i 300 milioni che si aggiungeranno ai 100 milioni già stanziati. Veniamo alla vicenda Fiat. Oggi ne ha parlato il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, il quale in merito a Termini Imerese, impianto che la Fiat mollerà a fine dell'anno prossimo, chiuderà, ha ricordato Romani che ci sono stati 7 progetti industriali presentati per Termini Imerese e gli occupati previsti a valle di questi progetti sono superiori ai 2200 attualmente occupati dalla Fiat nella stessa località, e sono 7 progetti industriali compatibili tra loro, ha sottolineato Romani. E poi ha sottolineato che tra l'altro tra il 15 e il 20 gennaio si arriverà all'accordo di programma con l'impegno del governo e della regione, sempre in merito a Termini Imerese. Per quello che riguarda invece il rinnovo, la vicenda di Mirafiori, quella che ha portato poi la Fiat a sostanzialmente voler uscire, seppur temporaneamente, da Federmeccanica e quindi da Confindustria in quel modo, e il ministro Sacconi si è detto fiducioso che si possa arrivare a un accordo sul nuovo contratto per Termini entro Natale, e lo ha detto intervistato dal collega di Radio Corriere sulle 24 ore, Nicola Filippone. Credo che in ogni modo si debba avere fiducia nel dialogo sociale e che in casi come quello di Fiat occorrono tempi brevi per creare le condizioni idonee a che si realizzi l'investimento che è stato promesso. Sono le parti ovviamente padrone del negoziato, noi possiamo a lato di questo negoziato svolgere solo un discreto accompagnamento, ma sono le parti padrone del loro destino innanzitutto in questa fase quantomeno, e io rimango ottimista. Così il ministro Sacconi. Allora, primo tema della nostra puntata, scusate se insistiamo, potremmo intitolarlo, ma a noi i bonus dei manager delle banche d'affari americane interessano parecchio. Evocato, molto evocato, allora ve lo diamo il Gordon Gekko in versione originale. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Allora, torna Gordon Gekko, tornano i bonus, torna anche come film i bonus dei manager. Allora, al di là del fatto che siamo contenti che la borsa americana, l'indice Standard & Poor's, abbia recuperato tutte le perdite dal crack Lehman Brothers, il 46%, e però, insomma, qualcosa ci lascia perplessi. 90 miliardi accantonati dalle prime 5 società di Wall Street per bonus ai manager, Wall Street che va a chiudere uno dei suoi migliori anni da sempre quanto a utili, 21 miliardi e mezzo solo nei primi tre trimestri del 2010, 21 miliardi e mezzo di utili nella società di Wall Street. Certo, va detto che in Gran Bretagna un banchiere su 10 resterà, tra banchieri e trader, senza bonus. I bonus in Gran Bretagna saranno ridotti del 20-30%, ma insomma Lloyd Blankfein, qualcuno se lo ricorda, il capo di Goldman Sachs, lui incasserà 24 milioni nel 2010, devo dire che è un terzo di quanto incassato nel 2007. Poi però ci sono i 20 miliardi distribuiti l'anno scorso, più 17%, che saranno aumentati quest'anno, e i 32 miliardi di dollari che comunque anche nell'anno del crack Lehman Brothers le banche d'affari americane pagarono, le prime 9 banche commerciali di investimento, quelle che ricevettero gli aiuti di Stato, pagarono i loro manager. Dicevo anche di escamotage per evitare in Gran Bretagna la tassazione sulle nuove regole, per cui 50% per i bonus sopra 25.000 sterline, 50% per chi guadagna più di 150.000 sterline. Insomma, per tutti questi motivi, alcune banche, facciamo anche i nomi, sì, insomma, Credit Suisse ha versato il 1 settembre un acconto di bonus e gratifiche prima della fine dell'anno, in modo che non risultasse di fatto come bonus. E allora torna Gordon Gekko e torna anche Giulio Sapelli, che non ha nulla a che fare con Gordon Gekko, insegna storia economica ed analisi dell'organizzazione della Statale di Milano. Professore, buonasera. Buonasera, uno spettro si aggira per l'Europa. Uno spettro si gira per l'Europa, Giulio Sapelli, no? Sapete, no? È quello che volevo fare riferimento. Allora, è vero che alcuni dicono, no, lei l'Alzheimer ce l'ha. Sì, forse ho l'Alzheimer, sì. io dico, non lei, no. Io. Allora, però è un tema, è un tema che, non so com'è, siamo sotto Natale, tutti vanno a farla... Shopping, c'è chi fa shopping meglio di altri. Allora, ragioniamo invece seriamente. Tutti contenti che lo Standard & Poor's sia tornato ai livelli pre-Lehman Brothers, un po' meno contenti che nulla sia cambiato, e vorrei un suo primo commento su questo. Cioè, torna a un livello pre-crack Lehman lo Standard & Poor's 500, tornano a record storico i bonus dei mezzi. Insomma, non Barack Obama, molte volte ne abbiamo discusso, ma insomma non ce l'ha fatta. Già problemi con la riforma sanitaria, riformare Wall Street sembra impossibile. Beh sembra impossibile se si fa come Barack Obama, lui non ha riformato Wall Street, il problema vero, la grande illusione, lui non ha fatto assolutamente nulla, ha fatto questa cosa impossibile da fare che io chiamo il modello sovietico di iper-regulation. Invece di fare quello che gli aveva consigliato il vecchio Volcker, breakdown the industrial finances, cioè spezza l'industria finanziaria, torna prima del Glass-Steagall Act, cioè dividi di nuovo le banche commerciali dalle banche di investimento, e Barack Obama, che poverino è stato eletto da Wall Street, adesso gli stanno dietro, e cosa ha fatto? Pensa di iperregolare le banche, ma è impossibile. E quindi queste si comportano, devo dire, con questi giochetti da due soldi, cosa che io avevo previsto, non c'è legge che tenga. Se la struttura dell'industria finanziaria rimane questa, non c'è legge, non c'è autorità, l'European Financial Stability Forum, tutte cose che servono a dare un po' più di stipendi ai banchieri. Il problema vero però è un altro: se questi vogliono darsi questi bonus, il problema se lo diano con i soldi loro è che rischiano. Io non ho nulla contro gli hedge fund, non ho nulla con 100 manager che rischiano e fanno una leva da 1 a 1000, perché rischiano con i soldi loro. Trovo vergognoso darsi bonus di questo tipo, fare scamotaggi come quello che annunciava il Financial Times stamattina e che lei ha giustamente ripreso, cioè che tutti si aumentano, alcune, le più virtuose cosa fanno? Aumentano vertiginosamente gli stipendi, diminuiscono un po' il variabile. Ma queste cose se le facciano con i soldi loro, non con i soldi della signora Gina che va in banca e deposita. O Jane, visto che... O la signora Jane, ecco. La signora Jane, sì, ma lo fanno anche qui. No. Allora, infatti, mentre lei sta parlando, io ricevo decine di sms al 349-238-6666 di bancari e non banchieri che dicono, insomma, le nostre banche hanno tagliato tutti i benefit, e in effetti meglio essere banchieri che bancari. Perché la cosa interessante, si fa per dire, non voglio usare un'altra espressione, è che mentre i top manager continuano ad accumulare bonus, la massa, diciamo, dei dipendenti di banca o era in esubero o comunque ha ricevuto delle riduzioni. Comunque, vorrei andare avanti sul ragionamento. Lei dice, Sapelli, se Barack Obama avesse fatto come gli aveva suggerito Volcker, e cioè tornare a banche commerciali, quelle normali, quelle da cliente da una parte e banche di investimento dall'altra, senza la commissione tra le due cose, che ha generato il fatto che con i risparmi della signora Gina tu andavi a speculare come banca di investimento con la leva, con i CDS, e con i futures, ecco, avrebbe tagliato la testa al toro. Domanda: perché non si è riusciti a tornare, secondo lei, a quella che era il vecchio meccanismo? Fu Clinton, se non ricordo male, a rompere in maniera, insomma, abbastanza con senno di poi errata, questa separazione tra chi fa banca normale, raccoglie risparmi di investor, e chi invece fa finanza pura, derivata, deviata, non mi interessa. Perché no? Ma perché no? Dunque, innanzitutto perché la risposta è in un classico libro di Charles Lindbloom che si chiama Poliarchia, perché quello che noi chiamiamo democrazia non esiste. Le decisioni politiche sono un mix tra decisione di un Parlamento di eletti, che il popolo si illude che contino perché li hanno eletti, esprimono le loro volizioni elettorali, ma questi poi parlamentari hanno delle terribili pressioni da parte dei poteri situazionali di fatto, le lobbies, gli influenze. Non c'è bisogno di evocare la corruzione. Se si fanno delle leggi sull'economia, i potentati delle cose. In America questo avviene anche alla luce del sole, perché lì sono meno ipocriti di noi e sono una vera democrazia liberale. Noi qui siamo invece una democrazia non consolidata, sì, ancora. Come mai? Ma perché chi comanda l'economia è un ristretto gruppo di 300-400 super manager, top manager delle grandi banche mondiali che hanno preso in mano l'economia. E tra un po', anche se le grandi imprese americane, il General Electric, che è un'impresa che bisogna sempre analizzare, ha già fatto fuori la sua struttura finanziaria e comincia a dire dobbiamo fare da soli senza le grandi banche d'affari, tra un po' si impossesseranno anche delle grandi industrie. Ma ormai le decisioni politiche sono in mano ai grandi banchieri, a 100 persone, ma voglio dire, poi vorrei arrivare dopo il meteo e la pubblicità anche all'Europa, perché in Europa invece il tema è meno polemico, come se i nostri banchieri, non, per carità, tutti legittimi, non ricevessero bonus. Magari è veramente meno evidente il fenomeno, meno macroscopico. Una notizia però la do prima del meteo e della pubblicità, perché c'è anche una delocalizzazione nella finanza, non solo nell'industria. Pensate che, secondo New York Times, il 90% delle vendite intraday, cioè quelle operate all'interno della stessa giornata, su Wall Street, cioè New York Stock Exchange e Nasdaq, è effettuato da oltre 10.000 broker operatori delocalizzati in Cina. Avete capito bene? In Cina, cioè hanno delocalizzato, anche la finanza delocalizza. Molte società di Wall Street si sono trasferite in Cina, invece di pagare un neolaureato 4-5.000 dollari al mese, prendono giovani per $1.000 che lavorano quando New York è aperta, quindi in orari abbastanza improbabili per noi. Bella questa, Sapelli, la delocalizzazione della... Insomma, automi erano quelli, autonomi sono i cinesi. Cioè, sempre automi dire, sono. Io penso che sia una cosa spaventosa fare quel lavoro lì. Quindi se usano dei lavoratori cinesi, ma va benissimo. I profitti però, meglio. I profitti stanno a Wall Street. Va bene, dopo il meteo invece la situazione europea, 349-238-6666 per i vostri sms. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Allora, Sapelli, Ettore Petrolini, 1930, ma cos'è questa crisi? Insomma, è la canzone che dedichiamo ai banchieri di Wall Street. Ai banchieri. Ai banchieri di Wall Street. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Allora, abbiamo rispolverato anche Petrolini e poi a chi ce lo chiede, non vi preoccupate, visto che abbiamo il presidente dell'Istat, il nostro ospite, più avanti nella seconda ora, parleremo anche del PIL con quel mitico discorso di Robert Kennedy all'Università dell'Arkansas 1968. Il PIL misura tutto tranne i motivi per cui vale la pena vivere. E da lì partiremo con altri ragionamenti. Allora, Sapelli, per concludere, perché in Europa, anche sulla stampa, il tema è così poco sentito? Perché prendono meno bonus i nostri manager, sono bonus insomma più... No, perché c'è meno libertà di stampa in Europa. Ma scusa, dove vivi, Barisoni? No, qua. Così, non esiste una editoria indipendente. Voglio dire, a parte il Financial Times e l'Era Tribune, in Italia si deve fare molto per carità, c'è la libertà dei giornalisti, su questo sono perfettamente d'accordo, non mi si intende in senso politologico, c'è meno libertà di stampa, c'è meno editoria indipendente, quindi tutto deve essere filtrato, tutto deve essere, come si poteva dire, con le vecchie parole di Benedetto Croce, dire tutto ma nicodisticamente. Il nicodemismo è una grande pratica europea, soprattutto nell'Europa del Sud. Più si scende a sud, io che mi diletto ancora di leggere un po' di giornali spagnoli, portoghesi, ma lì sembra che la crisi non esista, soprattutto se ti leggi El País. Cioè, hanno nascosto tutte le cose delle piccole banche, delle cascia per anni. Quando tutti sapevamo, io ho scritto delle cose anche che erano sull'orlo di un colossale fallimento per l'immobilizzazione che hanno fatto nelle società immobiliari e non ne parlava nessuno. Dovevi leggere Il Mondo o l'Avanguardia di Barcellona o la BC, giornale dell'opposizione. Maritoni, quindi tutto insomma... La civiltà non è, voglio dire, il sistema common law è molto più civilizzato del nostro, perché lì conta prima la società civile e la libertà dell'individuo. Lì i cittadini esistono, qui esistono sempre i sudditi, ricordo. O i clienti. No, i clienti gli vendi delle sole. Scusa, ai clienti vendi delle sole. Non parliamo di clienti, perché se io fossi un cliente, ragazzi... Allora, no, lasciamo stare, anche perché Deborah Rosciani questa mattina a Salvadanaio si è occupata dei clienti della società Autostrade, che già avranno i loro... i loro problemi sui rimborsi. Mi interessa invece molto questo spunto, perché è anche un'autocritica alla stampa in generale, e cioè noi possiamo dire quello che vogliamo, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, che dell'America, di Wall Street, che ha sponsorizzato la campagna di Obama, però obiettivamente le notizie che noi vi raccontiamo le prendiamo dal New York Times, dal Wall Street Journal, dal Financial Times ogni tanto, però insomma qua in Europa belle inchieste sui bonus dei manager bancari non ce ne sono, diciamo, lasciamo stare anche, quindi lei dice non è che non c'è problema, non c'è, mancò il coraggio, non il problema, per parafrasare la Main. Esattamente, ma anche se abbiamo dei bravissimi giornalisti che fanno le inchieste su Wikileaks, ma poi dopo quando finisce Wikileaks su cosa fanno le inchieste? Quindi cioè, questo è un grosso problema. Però devo dire che in Italia effettivamente la situazione delle nostre banche è meno grave di quella delle banche anglosassone, questo non c'è dubbio. Allora, io intanto le auguro buon Natale, iniziamo a fargli auguri anche di buon Natale, buon anno, spero, mi auguro che nel 2011 parleremo di altri temi. Sì, ma uno spettro si aggira per l'Europa. Ecco, lei Sapelli, certo, però certo. Grazie a Giulio Sapelli, che oltretutto ha anche dotato di grande spirito, oltre che insegnare storia economica e analisi delle organizzazioni all'Università Statale di Milano. Grazie, speriamo veramente nel 2011 di occuparci, non lo so, magari di come le banche hanno investito, di quanti tipi di come la liquidità sia rientrata, perché in tutto questo hanno ragione gli ascoltatori a dire attenzione, ci sono tanti tanti soldi in giro, tanta liquidità in giro, e poi questo lo si vede anche dai profitti di Wall Street, della City di Londra e dal modo in cui sono stati fatti, avete ragione, più o meno gli stessi modi che accompagnarono in questo valzer del Titanic l'economia finanziarizzata al crack di Lehman del 2008. Va bene, molti messaggi che arrivano, molti complimenti anche a Sapelli, questo ci fa più che contenti. Direi adesso la borsa, poi come volete sapere i dati sull'export, adesso li commentiamo, e anche sull'occupazione, ripeto, per un presidente dell'Istat per parlare dei disoccupati al livello massimo dal 2004, la borsa. La borsa più 1,80% in chiusura, più 1% Parigi, scusatemi, più 0,85 Francoforte, più 0,90 Londra. E allora, come sempre con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, Livia Zancaner. Buonasera. Ecco, visto che dicono che ho preferenze per te, a questo punto ci giochiamo. Livia, buona la giornata, come ieri devo dire, oggi su Milano, ma soprattutto grazie, Milano ha quasi un punto percentuale in più rispetto alla media, grazie soprattutto ai bancari anche oggi, dico di bancari, prima parlavamo di banchieri, adesso parliamo di bancari intesi come titoli, più 3,60 al Banco Popolare, più 3,50 Unicredit, bene anche Fondiaria, più 3,55% Mediobanca, più 2,60. Sì, allora, come è noto, i titoli finanziari rappresentano quasi il 30% della capitalizzazione del nostro listino, quindi quando il comparto bancario va bene in Europa e soprattutto la piazza milanese che ne a trarne beneficio. Quindi il titolo migliore sul FTSE MIB è stato il Banco Popolare, appunto come hai detto tu, ha guadagnato oltre il 3,5%, le azioni già ieri avevano chiuso in rialzo di oltre il 5%, beneficiando delle scommesse del mercato su possibile aumento della quota da parte della Fondazione Cari Verona, che attualmente è azionista del Banco Popolare con lo 0,06%. Sì, Biasi che va in aiuto a Fratta Pasini, diciamo. Sì, infatti ieri vi erano state, appunto negli ultimi giorni vi erano state queste indiscrezioni, oggi, cioè ieri poi ai mercati chiusi Cari Verona ha confermato la partecipazione all'aumento di capitale, ma in realtà non si sa ancora granché sulle future mosse della Fondazione. Più della concorrenza tra banche e la città, la cittadinanza, quello che conta in questa operazione, scherzo chiaramente, però mica tanto. Andiamo a Fondiaria SAI, più 3,5, e qui ci sarebbe invece... Sono voci di nuovi prestiti, nuovi crediti in sostanza, che il gruppo Unicredit erogherebbe a Premafin, che è la finanziaria della famiglia Ligresti, che controlla poi Fondiaria SAI. Sì, infatti, secondo alcune indiscrezioni stampa, ieri, proprio ieri, si è tenuto un CDA di Unicredit che ha confermato il riscadenziamento del debito di Brema, fin domani è prevista la firma a Lugano dell'operazione, ma non solo questo, infatti il CDA avrebbe deliberato una linea ponte per 7 milioni con un rimborso previsto entro settembre 2011, quindi comunque il mercato crede alle voci e scommette quindi su ulteriori linee di credito concesse da Unicredit al gruppo Ligresti. Ancora Fiat, vicenda Fiat, ne abbiamo parlato in apertura per quello che riguarda Termini Imerese, le 7 proposte tra di loro compatibili con un numero, dice il ministro Romani, di occupati anche superiore a quello che ai 2200 dipendenti di Fiat a Termini Imerese. Mirafiori, l'auspicio del ministro Sacconi che si possa chiudere entro Natale. Il titolo si è mosso, ma soprattutto si è mossa Exor, qui c'è una sentenza anche che forse ha influito, più 2,90% Exor. Sì, allora il titolo ovviamente è l'Exor azionista di riferimento di Fiat, quindi il titolo ha beneficiato del buon andamento di Fiat e del buon andamento del comparto auto in Europa, ma oggi c'è stata appunto la notizia della soluzione per grande Gabetti, Steven Gabetti, cioè, e Marrone accusati di aggiottaggio, e appunto il Tribunale di Torino li ha assolti dicendo che il fatto non sussiste. I tre manager allora di IFI, che poi sono state unite in Exor, erano stati accusati di aggiottaggio informativo per aver nascosto alla borsa, secondo l'accusa, le modalità con cui la famiglia Agnelli a settembre 2005 era riuscita a mantenere il controllo di Fiat dopo la famosa scadenza del prezzo convertendo da 3 miliardi. In sostanza, sullo sfondo c'è l'accusa di aver aggirato l'obbligo di OPA, ossia per la legge italiana se tu superi il 30% dell'azionario, tu devi lanciare un'offerta pubblica al restante 70%. Su un gioco, diciamo, di minuti, questa è l'accusa. Fiat aveva superato, o meglio, i fili avevano superato questa soglia. Insomma, comunque il tribunale ha detto il fatto non sussiste. Adesso c'è il traffico, poi parliamo di Fiat, più 3,60%, il miglior titolo oggi. 349-238-6666 invece il numero per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora Livia Zancanel, Fiat. Sì, allora Fiat ha guadagnato quindi il 3,6% in un comparto auto europeo in rialzo dell'1,8%, quindi le azioni hanno beneficiato, oltre al buon andamento del comparto, anche delle indiscrezioni stampa. Rinnovate iscrizioni stampa su un interesse da parte di Daimler per acquisire Fiat Industrial, che è praticamente la società nata dallo spin-off di Fiat che controlla CNH e Iveco. Secondo le iscrizioni, l'offerta di Daimler sarebbe di 14,5 miliardi rispetto ai 18 miliardi eventualmente chiesti da Fiat. Bisognerà comunque aspettare la quotazione della società, che sbarcherà in borsa il 3 gennaio, per capire effettivamente che cosa succederà. Ricordiamo che giorni e settimane fa si erano parlato anche di discrezioni relative alla cessione di Magneti Marelli, quotazione di Ferrari o vendita di Alfa Romeo. Altri titoli oltre a quelli citati: Impregilo bene più 2,80, Mediobanca l'abbiamo detto, Buzzi Unicem più 2,60, Parmalat più 2,5 come Tods, e Intesa San Paolo il 2,2 rialzo di A2A di Finmeccanica, il 2,1 quello di Telecom, il 2% del Monte dei Paschi, e poi l'1,90 di Generali e di Enel, l'1,40 di Campari e di Talcementi, ma anche di Pirelli. Luxottica più 1,3, Saipem più 1% come Ubibanca ed Eni. Anche Autogrill guadagna l'1%. Chi perde? Azimut lo 0,80 e Bulgari lo 0,54%. Migliori e peggiori, Fidia più 22,5. Che è successo a Fidia? Ma in realtà non ci sono, oggi non ci sono state particolari notizie. Cicolella? Neanche. Cicolella più 15%. È un nostro titolo mitico, produce nel settore vivaistico, quindi fiori. Cogeme più 15, Carsef più 15, Beghelli più 12, nessuna novità su questi titoli, che hanno comunque volumi molto sottili, Livia? No, in realtà bisogna dire che Carsef è da molte sedute ormai che sta salendo, infatti. Mm-hmm. Cobra più 7,80, fronte opposto, Pininfarina meno 5,60, De Longhi meno 5%, Green Vision meno 3,80%. Grazie a Livia Zancanere. Adesso una coda ancora del primo tema per parlare dell'export, perché molti di voi ci hanno chiesto nel frattempo, ma insomma le banche d'affari americane hanno restituito i soldi che hanno avuto in prestito prima di distribuire i mega dividendi anche quest'anno, i mega bonus anche quest'anno? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Non esattamente, nel senso che alcune banche li hanno restituiti tutti, 25 miliardi li ha ridati JP Morgan Chase, 25 miliardi li ha ridati Wells Fargo. Citigroup, che pure ha distribuito dei bei bonus, deve ancora al contribuente americano 10 miliardi di dollari, ne ha restituiti 36 su 45. E poi c'è Bank of America, che tutto ha restituito. General Motors invece deve ancora 30 miliardi al contribuente americano. E poi Fannie Mae e Freddie Mac, i ballerini di Broadway, ve le ricordate, le agenzie che avevano in mano, dove si rischiò veramente il collasso, il 70% dei mutui americani. Allora, ha ricevuto 63 miliardi Freddie Mac, ancora non ha dato una, non ha ritornato un dollaro, e Fannie Mae anche lei 88 miliardi, non ha ritornato nulla. Ha ritornato qualcosa AIG, l'altro colosso dei mutui americani, su 70 miliardi ricevuti ne ha ritornati 48. Come vedete, prima i bonus, poi il ritorno dei prestiti. Immaginiamo se funzionasse così anche in banca, eh? Uno prima si dà le 13, gli aumenti, e poi ritorna i soldi che ha ottenuto in prestito. Ma non vogliamo polemizzare, parliamo invece del nostro export. Eh sì, perché la crisi invece l'export l'ha sentita. Ricorderete il dato dell'anno scorso, un dato pesante, oltre 20%, 24% di calo, e invece 20,9%. E quest'anno dovrebbe chiudersi intorno all'8% di aumento, 10% d'aumento, 7% l'ha fatto, dovrebbe farlo nel prossimo biennio. Insomma, per farla breve, se ho ben capito, per tornare ai livelli pre-crisi bisognerà aspettare l'inizio del 2013 sull'export. Dati diffusi dalla SACE, cioè da chi si occupa, controllata al 100% dal Ministero del Tesoro, di assicurare e gestire il credito alle imprese, offrire assistenza e protezione agli investimenti delle nostre imprese all'estero. Vorrei saperne di più con la responsabile dell'ufficio studi, dottoressa Camilla Cionini-Visani. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, voi avete fatto una stima che torneremo a esportare come nel pre-crisi nel 2013. Come ci collochiamo a livello europeo? Come ci collochiamo a livello europeo? Sì. Diciamo che sicuramente l'Italia avrà una buona performance dal punto di vista delle esportazioni. Ricordiamo che l'Italia, dopo la Germania, è il secondo paese esportatore a livello europeo, e quindi siamo sicuramente inferiori alla Germania, che ha beneficiato di un aumento della produttività nell'industria manifatturiera, ma siamo in linea con i risultati, se non leggermente migliori, di quelli di Francia e di altri paesi export led al di fuori dell'Europa, come il Canada e come il Giappone. Ecco, voi nell'assicurare i crediti e poi nel fornire anche assistenza per quello che riguarda la protezione degli investimenti, dove avete le maggiori, chiamiamole così, sofferenze, dove notate le maggiori criticità? Ma io, diciamo, non parlerei di criticità, ma parlerei di opportunità. Allora, di opportunità, parliamo di opportunità, giriamola in positivo. Parliamo dove il bicchiere è mezzo pieno, mi dica. Assolutamente, parliamo di opportunità, e pensiamo che di opportunità ce ne siano, soprattutto per molte imprese italiane che nel corso di questi anni hanno avuto la capacità di riorganizzarsi, di internazionalizzarsi, non solamente attraverso la delocalizzazione, ma proprio modificando il loro modello di business, andando a essere presenti sin dall'inizio su quei mercati che saranno i mercati che guideranno la ripresa della domanda. Questi mercati noi nel nostro rapporto li abbiamo chiamati paesi emergenti avanzati, poiché gli emergenti, i paesi emergenti ormai è una classificazione troppo ampia, dove all'interno di questa definizione ci sono mercati tra di loro con caratteristiche troppo disomogenee. Quindi non parliamo solamente di BRIC, ma parliamo anche di Turchia, per esempio. Parliamo di Turchia, parliamo di Polonia, parliamo anche di Indonesia, di Malesia, di Cile. Certamente sono mercati dove per ognuno di questi ci sono settori che sono particolarmente interessanti, ma che rappresentano delle delle opportunità e che in particolare in alcuni di essi le imprese italiane sono già ben posizionate. In effetti qualche cifra la do io, nel prossimo anno voi stimate che cresceranno questi paesi, Brasile, Turchia, Cina, per esempio le nostre esportazioni in questi paesi di un 3% in più, cioè un più 9% contro una media di più 6%, in America Latina più 14% nei prossimi 2 anni grazie al Brasile più 17% e al Cile più 11%, e poi bene l'Asia più 10% l'export, India, Indonesia e Malesia tutte con un più 12%. Lo dico agli imprenditori in ascolto, bisogna tornare fuori dall'Europa, fuori dall'Italia. Grazie per ora e buon Natale a tutta la SACE. A questo punto alla dottoressa Camilla Cennini-Visani. Ci avete chiesto perché non abbiamo messo il gallo per le Fiat, non so se vi sembra il caso di mettere il gallo per la Fiat in questo momento. GR e poi l'occupazione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver trattato il tema dei mega bonus di nuovo a Wall Street, dell'andamento del nostro export, di questa borsa che oggi chiude bene Fiat soprattutto, ma anche i gruppi bancari. E l'altro grande tema di questa giornata economico-finanziaria si chiama mercato del lavoro, perché oggi l'Istat ha fornito il dato sulla disoccupazione in Italia. A questo punto il dato è quasi definitivo, cioè siamo al terzo trimestre 2010, ci sono anche le stime preliminari sul mese di ottobre. Ne parleremo con chi il dato l'ha fornito. Mentre vedo molti messaggi al 349-238-6666 e anche su questo tema, ricordiamo intanto il dato. In ottobre il tasso di disoccupazione è salito dall'8,4 all'8,7%, direte tanto poco, basti pensare che insomma dal 2004, dal gennaio del 2004, da quando esiste la serie storica mensile, la disoccupazione in Italia non arrivava all'8,7%. Migliora il bilancio del solo ultimo trimestre all'8,3, in aumento comunque rispetto al terzo trimestre del 2009. E allora, visto che il dato l'ha fornito l'Istat, ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente dell'Istat stesso, professor Enrico Giovannini. Buonasera. Buonasera. È una scheda che abbiamo preparato sui dati complessivi, poi vorrei capire, senza voler metterci nessuna enfasi, ma insomma se possiamo giudicarla anche una mezza buona notizia, visto che rallenta la disoccupazione nell'ultimo trimestre, oppure se il dato complessivo dei primi 9 mesi dell'anno, ai massimi la disoccupazione del 2004, è comunque una notizia negativa, cioè se dobbiamo guardare la tendenza oppure il dato in sé. La scheda. È un mercato del lavoro che tiene, ma che mostra segni di deterioramento, quello fotografato dall'Istat tra luglio e ottobre scorsi. Se da un lato la disoccupazione si mantiene al di sotto della media europea e nel terzo trimestre dell'anno è scesa all'8,3%, dall'altro i dati preliminari di ottobre mostrano una risalita dell'indice fino all'8,7%, il livello più alto almeno dal gennaio 2004. Tra luglio e settembre le persone in cerca di occupazione erano più di 2 milioni e quel che è più preoccupante è che nella metà dei casi si trattava di una disoccupazione di lungo periodo. Sono aumentati inoltre gli inattivi, ossia coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano, che nel terzo trimestre 2010 rappresentavano il 38,6% della popolazione in età lavorativa. Nel mezzogiorno risultava inattiva addirittura la metà della popolazione. Il risultato complessivo è che nel trimestre esaminato gli occupati erano in calo dello 0,8% a quota 22.811.000, ossia il 56,7% del totale, con il picco negativo in Calabria al 41,2% e quello positivo nella provincia di Bolzano al 71,3%. A livello settoriale, la perdita di posti di lavoro ha riguardato principalmente agricoltura ed edilizia, stabili invece industria e servizi. Si conferma particolarmente grave la situazione dei giovani. Tra i 15 e i 24 anni i disoccupati sono il 24,7%, ma nel caso di giovani donne del mezzogiorno si arriva sino al 36%. Restringendo il campo alla fascia di età 20-24 anni, il tasso di senza lavoro si attesta al 22,5% contro il 20,8% di un anno fa. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, si registra un deciso calo dei contratti a tempo indeterminato, diminuiti di 349.000 unità, a cui fa da contraltare un aumento dei rapporti part-time. Allora, secondo alcuni di voi inattivi significa lavoratori in nero, li calcoliamo, chiedono ascoltatori, come facciamo se sono in nero? Un simbolo calcolare uno in nero. Comunque, presidente Giovannini, dicevo, ottobre il dato non è bello, va dall'8,4 all'8,7, record dal 2004, però nel periodo luglio-settembre è un po' più bassa, l'8,3%. Come sta il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma il dato del terzo trimestre era stato salutato come un dato positivo anticipato dalle stime mensili, proprio perché la stabilità del tasso di disoccupazione unita all'arresto della caduta dell'occupazione sembrava indicare che eravamo arrivati in qualche modo a un limite e che la ripresa economica potesse in qualche modo invertire queste tendenze. Il dato di ottobre, che segnala questo aumento del tasso di disoccupazione, è in gran parte dovuto all'aumento della presenza sul mercato del lavoro delle persone. Infatti il tasso di presenza sul mercato, il tasso di attività è anch'esso aumentato di 3 decimi. Cosa vuol dire? Che evidentemente con qualche nube forse diradata, non in senso meteorologico ma in senso economico, più persone si stanno offrendo sul mercato del lavoro alla ricerca del lavoro mentre prima erano scoraggiati. Quindi in realtà aumenta il dato anche perché ci sono più persone che rientrano in quelli che cercano lavoro ma non lo trovano, capito bene? Esattamente, è proprio così. E infatti il segnale è particolarmente forte nel nord, che aveva avuto invece un calo dell'occupazione particolarmente pronunciato, soprattutto tra i giovani, proprio nella fase più dura della crisi ciclica. Adesso iniziamo la parte dell'intervista in cui vorrei allargare poi dalla notizia in sé ad altri elementi. E vi annuncio che stiamo pensando seriamente dall'anno prossimo di avere l'Istat ospite almeno 1 o 2 volte al mese per raccontarci questa Italia da un punto di vista statistico, demografico, economico e anche sociologico. Restiamo in tema però sui giovani. Allora, le donne al sud al 36%, i giovani al 24,7%. Abbiamo il record europeo praticamente. Lei si sarà chiesto il perché e al di là della spiegazione che si è dato, quanto pesa il nero? Perché io non vorrei che queste statistiche fossero poi sui giovani e sulle donne al sud molto molto inficiate dal lavoro sommerso. Intanto per i giovani dobbiamo dire che avere un tasso di disoccupazione superiore al 25% è un problema molto serio. Noi abbiamo dedicato gran parte del nostro rapporto annuale di maggio proprio a questo tema e abbiamo richiamato più volte questo indicatore dei cosiddetti NEET, cioè i giovani che non sono né a scuola né al lavoro, che hanno raggiunto un numero impressionante, 2 milioni di unità. Da un punto di vista congiunturale, il terzo trimestre segna una riduzione significativa del tasso di disoccupazione giovanile dal 27,9 al 24,7, che appunto è un segnale di dinamicità maggiore del mercato del lavoro. Detto questo, il problema dei giovani resta, come dicevo, molto serio, non solo perché questi dati ci indicano questa situazione, ma anche perché i salari che gli occupati giovani percepiscono sono estremamente bassi. Come abbiamo mostrato l'altro giorno, i dati per esempio relativi anche ai dottori di ricerca, quindi persone molto qualificate, indicano dei salari molto bassi. Sulla sua domanda, a che livello, giusto per sapere? Ma abbiamo una media di circa 1.400-1.500 euro al mese, e poi a seconda dei vari settori, magari i medici guadagnano un po' di più e i dottori di ricerca in filologia romanza un po' di meno naturalmente, però sono salari molto bassi rispetto agli standard internazionali, soprattutto per chi ha fatto un percorso molto difficile, molto impegnativo sul piano lavorativo e dello studio. Dicevo, il nero, noi classifichiamo una persona come un occupato, ancorché naturalmente distinguiamo tra i sottooccupati e gli occupati, se ha lavorato almeno un'ora retribuita nel periodo di riferimento. Ora, noi abbiamo visto che gran parte delle persone di fronte alla domanda lavori, tendono a rispondere la verità. Poi naturalmente un'ora di lavoro è nulla, non è certo sufficiente per portare avanti una famiglia. E quindi pensiamo che il nero, come lei dice, in realtà sia contato correttamente dall'indagine sulle forze di lavoro e poi noi incrociamo questi dati con molte altre informazioni e quindi riteniamo che non si possa dire che i giovani sono in realtà occupati, okay. Ma le statistiche le indicano. Cioè lei dice, tra le risposte anche chi dice sì, lavoro 5 ore e magari le lavoro in nero, però voi lo riuscite in qualche modo a calcolare. Domanda delle domande, ma non è troppo basso il vostro livello per calcolare il lavoro? Cioè delle volte stiamo parlando di lavori che non sono neanche di sussistenza, no? Certamente sì, ed è per questo che... lavorare 10 ore al giorno, a settimana, io sarei a quel punto occupato, giusto? Per l'Istat? Esattamente, per ecco. Tutti gli istituti di statistica del mondo. Per cui se io lavorassi un'ora e mezza al giorno sarei sostanzialmente occupato. Ora... o mi danno 500 euro all'ora, o se no è difficile campare con una cosa del genere, no? Esattamente, ed è per questo che non bisogna guardare soltanto a questi dati, ma bisogna guardare anche, ad esempio, ai dati che noi pubblichiamo trimestralmente sul reddito delle famiglie, che mostra esattamente un calo rispetto all'anno precedente. Non esistono solo singoli numeri che riescono a dare il quadro complessivo, quindi tu sei un occupato perché effettivamente lavori almeno un'ora, ma poi fai la fame come altre statistiche eventualmente indicano. Allora, dopo il traffico, le vorrei chiedere che fine ha fatto il gruppo di lavoro che prende il nome di Stiglitz, di un premio Nobel, su nuovi modi per calcolare il PIL, cioè che cosa fa la ricchezza e il benessere di un paese. E anche la vecchia polemica sul come l'Istat non ha saputo vedere l'impatto dell'euro sulla lira, perché lei ha avuto una dichiarazione molto interessante che è una critica anche a noi, ai giornalisti. 349-238-6666 per i vostri sms dopo il traffico. E allora, mentre vedo molte domande al 349-238-6666, abbiamo sentito oggi Gordon Gekko sull'avidità. Abbiamo ascoltato la canzone Ma cos'è questa crisi? Avete chiesto anche un altro così piccolo pezzo cult di questo programma, ve lo diamo perché il tema c'è tutto, la canzone Ma cos'è questa crisi di Ettore Petrolini, e mi riferisco a sto benedetto maledetto PIL, perché il Bhutan, che non sarà un grande stato, ha deciso di non utilizzare più il PIL come misura della crescita di un paese. Francia, Germania, quindi Merkel e Sarkozy ci stanno lavorando, c'è una commissione di cui fa parte anche lei, presidente dell'Istat Giovannini, con il premio Nobel Stiglitz, con Jean-Paul Fitoussi ed altri. E allora sentiamo Robert Kennedy, Kansas University, 1968. Too much and for too long. Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla nostra eccellenza personale e ai valori della nostra comunità in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro prodotto interno lordo ha superato gli 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli Stati Uniti in base a questo, comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgomberare le strade dalle carneficine. Comprende serrature speciali per le nostre porte di casa e prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende l'abbattimento delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nel caos della deregolamentazione urbanistica. Tiene conto della produzione di napalm e delle testate nucleari e delle auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile di Weedham e il coltello di Speck e i programmi TV che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, la qualità della loro educazione e l'allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie e la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra passione, né la fedeltà alla nostra patria. In altre parole, misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull'America, eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani. that we are American. Beh, insomma, bellissima quella frase, molto evocativa, ci dice tutto tranne i motivi per cui la vita deve essere vissuta. Come va la commissione per riformare l'idea di questo benedetto PIL, presidente dell'Istat Giovannini? In realtà la commissione ha terminato i suoi lavori a settembre dell'anno scorso, con un rapporto che da quel momento è stato studiato in tutti i paesi del mondo, e io sono naturalmente molto contento che questa commissione sia nata anche per il lavoro che avevo svolto in OCSE all'epoca, prima proprio di questa commissione. Qual è il messaggio chiave? Il messaggio chiave è che non è possibile avere un unico dato che sintetizza tutti gli aspetti del benessere di una nazione o di una comunità. Ci sono diverse dimensioni da prendere in considerazione: la salute, la conoscenza, il lavoro, il benessere materiale naturalmente, l'ambiente, le relazioni interpersonali, il ruolo che ognuno svolge nella società e poi l'equità e quindi le disuguaglianze all'interno di una società, ma anche le disuguaglianze intertemporali, cosiddetta sostenibilità, perché se noi ci mangiamo tutto quanto e non lasciamo nulla alle generazioni successive, non è che andiamo molto lontani. Ecco, sulla base di questo schema concettuale, molti, compresa l'Italia, si stanno avviando a misurare il benessere usando una serie di indicatori chiave, decisi, discussi anche con la partecipazione delle parti sociali, della società civile, perché di dati ce ne sono tanti e io dico sempre che forse si tratta di costruire una sorta di costituzione statistica, cioè qualcosa che ci rappresenti tutti quanti, che tutti possiamo usare come riferimento. Allora, su questo, per quello che riguarda misurare il tasso di felicità, io invito gli ascoltatori a essere cauti, a chi scrive al 349-238-6666, non penso comunque che se andassimo a usare un indicatore sulla felicità l'Italia emergerebbe rispetto all'indicatore sul PIL, dove cresciamo poco, perché da tutte le statistiche gli italiani sono quelli che si lamentano di più della loro situazione. Però restiamo in tema di come si misura il benessere di un paese, presidente Giovannini. Lei parlava di disuguaglianze, l'altro ieri la Banca d'Italia ha detto in sostanza, e poi anche altri istituti, in sostanza, attenzione, qui il 48% della ricchezza è in mano al 10% del paese. Allora, secondo lei in questi anni c'è stato uno spostamento di ricchezza, o meglio un aumento del divario, come alcuni vogliono, quasi come vulgata, ma voi lo vedete statisticamente? Certamente sì, e anzi quando ero all'OCSE feci produrre un rapporto che si chiamava Crescere diseguali, che mostrava come l'aumento della diseguaglianza nel corso degli ultimi 15 anni in Italia è paragonabile a quello che è avvenuto negli Stati Uniti, come tendenza, non come livelli. La sperequazione della ricchezza negli Stati Uniti è molto più elevata di quella che c'è in Italia, ma la tendenza effettivamente era molto simile. Ecco, domanda, ed è l'ultima che ho per lei, abbiamo due minuti scarsi. Questo è avvenuto grazie al passaggio lira-euro, cioè, e vorrei anche una missione di colpa, perché ne abbiamo parlato per decine di puntate. L'Istat ci ha sempre raccontato di un'inflazione al 2-3-4%, scusatemi, e noi vedevamo invece il passaggio 1000 lire, 1 euro. Questa sperequazione è avvenuta grazie a un cattivo calcolo anche dell'inflazione da euro? Io sono convinto che l'Istat in quegli anni, così come gli altri istituti di statistica, abbia fatto correttamente il proprio lavoro, e se vuole proprio questa crisi dimostra la correttezza delle stime dell'Istat. Infatti vediamo che siamo nella peggiore recessione dal dopoguerra, per una caduta del reddito del 5% delle famiglie. Se l'inflazione fosse stata, come qualcuno diceva, del 18, del 20, del 30%, la caduta del reddito sarebbe stata dell'ordine del 15-20% all'anno, per vari anni. Cioè ci troveremmo di fronte a un'economia in condizioni di guerra. Ciò nonostante, la caduta del reddito, secondo i dati Istat, dal 2000 al 2009 per ogni famiglia è superiore in termini reali ai 1000 euro a famiglia. Non è poco, perché poi alla fine questo determina proprio anche la libertà di scelta nel decidere come spendere. Mi scusi, ma mi sta dicendo che noi, polemizzando con l'Istat, non abbiamo centrato il tema che era invece cosa capitava nella filiera del commercio, per esempio, insomma, in chi se ne approfittava? Io credo che l'Italia si sia troppo concentrata su un'ipotetica errore nella stima dell'inflazione e non abbia visto la grande redistribuzione del reddito che c'è stata tra il reddito dipendente e quello autonomo, a favore del commercio, a favore dei profitti nelle piccole imprese, che pure i dati Istat testimoniano, e la distribuzione del reddito più complessiva tra i meno ricchi a favore dei più ricchi. Sì, questo è stato il tema, secondo me, che è stato fuorviato. Allora, portato. Io ringrazio il Presidente dell'Istat, buon Natale, buon anno anche a lei. Devo dire che se noi abbiamo sbagliato obiettivo, lo ha sbagliato anche l'Agenzia delle Entrate, perché non ci risulta che sia riuscito a scovare i guadagni di chi ha fatto 1.000 lire un euro. Comunque, grazie a Enrico Giovannini, appunto, Presidente dell'Istat. E allora, in conclusione, di nuovo il passaggio tanto atteso da milioni di ascoltatori tra sottoscritto e Giuseppe Cruciani. Non so se sia più atteso il decine di milioni, quello che viene dopo. Però, o forse è attesa la fine del programma, non lo so. Esatto, la fine per l'inizio di un'altra. Va bene, ma dici di cosa ci occuperai? Beh, insomma, di cosa ci occuperemo? La bomba di Barbara, l'intervista di Barbara Berlusconi ad un settimanale, in cui ha detto delle cose molto dure nei confronti di Mara Carfagna, ma anche nei confronti del padre. Un po' ne ha avuto un buon giudizio su Renzi, se ho ben visto, no? Ottimo giudizio. Non so quanto farà piacere a Renzi in questo momento, però. Beh, meglio quello del blocco dell'autostrada. Allora, tra poco la zanzara da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.